Con Andrea Inzerillo, direttore della nona edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2019. Andrea, ben trovato. Grazie, ben trovato a te. Lo raccontiamo? Intanto partiamo dalle origini di questo festival. Nuova edizione, abbiamo cominciato nel 2010 in un panorama cinematografico sicuramente diverso, in cui il cinema LGBT era penalizzato a livello distributivo. Questa cosa via via si è andata modificando nel corso degli anni, ma rimane un'esigenza di indipendenza e di libertà che ancora è senz'altro penalizzata nella distribuzione ordinaria. Il nostro festival prova a dare spazio appunto a quel cinema contemporaneo d'autore che indaga con uno sguardo queer più che con una tematica strettamente intesa. E appunto facciamo questo cammino nel cinema contemporaneo portando quelli che a noi sembrano alcuni tra gli sguardi più interessanti. Siamo confortati dal fatto che alcuni di questi autori o per esempio alcuni di questi montatori, abbiamo in giuria quest'anno una montatrice che ha montato molti dei film che noi proiettiamo e che ha appena vinto il Grand Prix du Jury al Festival di Cannes col film di Mathilde Diop. Quanti sono i lavori proposti? Presenteremo circa 60 film tra cortometraggi e lungometraggi. Ci sono due sezioni competitive, le sezioni competitive presentano 8 lungometraggi in concorso e 13 cortometraggi e poi tutti gli altri film fanno parte delle varie altre sezioni, credo siano 5, che sono sezioni di storia del cinema o sezioni non competitive legate al cinema più contemporaneo. Quali sono le tematiche più forti che emergono da questi lavori? È difficile fare una sintesi, anche perché molto spesso, per esempio, se penso al film del concorso principale, il concorso dei lungometraggi, quest'anno presentiamo, forse è una cosa un po' anomala, due lavori di un regista italiano, uno stesso regista che ha due film in concorso. Il regista si chiama Luca Ferri ed è un nome che forse ad alcuni stupirà trovare all'interno di un festival queer. Invece un autore che rappresenta uno sguardo nuovo, uno sguardo interessante all'interno del cinema italiano e quindi ci sembrava giusto dare spazio. Come lui, altri autori, Carlos Conceição, un portoghese che lo scorso anno era da noi in giuria, ha presentato quest'anno a Berlino un festival che si chiama Serpentario, che è un viaggio in Angola per riscoprire, per rispondere a una promessa fatta alla madre ed è un viaggio in realtà dentro di sé tra Antonioni e la fantascienza. Più che tematiche sono sguardi e aperture di immaginari inediti, quelle che proponiamo quest'anno. Da questo punto di vista, quali sono i paesi più vivaci? Ci siamo resi conto, dopo aver fatto la selezione, che quest'anno c'è una strana mancanza o comunque penuria di film statunitensi e invece una grande abbondanza di film di lingua portoghese, quindi che vengano o dal Portogallo o dal Brasile, davvero sia tra i cortometraggi che tra i lungometraggi, il che denota senz'altro una vitalità della cinematografia portoghese, lo sapevamo da tempo, ma anche della cinematografia brasiliana. Poi, senz'altro, come spesso accade nel nostro festival, il cinema francese è molto presente. Apriamo con Climax di Gaspar Noé, chiudiamo con Claire Aimé et Courir Vite di Christophe Honoré e in mezzo avremo la possibilità di vedere anche molte altre opere. Previsti una serie di ospiti, gli autori? Sì, sono previsti moltissimi interventi, cioè abbiamo più di 20 ospiti quest'anno, il che significa che appunto si viene a Palermo per vedere Sicilia Queer, ogni giorno troverà almeno tre registi a presentare i loro film o, cosa ancora più bella dal nostro punto di vista, registi che erano venuti gli scorsi anni, che tornano a spese loro, tra l'altro, per venire a vedere il festival e che presenteranno i film di altri autori, quindi ci saranno degli incontri inediti, penso a Vincent Dieudonné, penso a Arnold Pasquier, penso a Lionel Bayer, che dialogheranno con degli autori o che dialogheranno con film della storia del cinema. Noi quest'anno presentiamo il cinquantennale del Funerale delle Rose di Matsumoto, che è un film che aveva ispirato Kubrick per Arancia Meccanica, e presentiamo un classico della storia del cinema gay, che si chiama Ai cessi in tassì, è un film tedesco del 1980 di Frank Riplo ed è un film di una libertà compositiva e tematica straordinaria. I luoghi e gli orari? Il festival si svolge essenzialmente ai cantieri culturali alla Gisa, con al centro il Cinema De Seta, ma utilizzerà anche gli spazi del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Goethe Institute, dell'Institut Français, che hanno sede sempre ai cantieri culturali alla Gisa. Le proiezioni sono tendenzialmente dalle 4:30 fino a 12:30, però nel fine settimana, cioè questo venerdì, sabato e domenica, tutti i film in concorso, lunghi e corti, saranno replicati anche al Cinema Rouge Noir di mattina. Facciamo questo esperimento delle matinée, che è abbastanza inedito per Palermo, e quindi sarà possibile andare al cinema di mattina a vedere i film legati alle competizioni. Allora, ricordiamo la 9ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo dal 30 maggio al 5 giugno 2019. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Sì, allora, il sito internet è www.siciliaqueerfilmfest.it e ci trovate sempre sui principali social media, Facebook, Twitter, Instagram. Un saluto e un ringraziamento al direttore Andrea Inzerillo. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto. Grazie, a presto.